dorme molto e la bella fiorita. Si raccontava una volta di un giovanotto a cui piaceva dormire molto e a lungo. A volte se ne stava a letto per delle intere giornate. Una volta riuscì persino a restare ininterrottamente immobile per più di un mese. La sua attività preferita era sonnecchiare, dormire, dormicchiare, dormire a occhi aperti, pisoleggiare, fare finta di dormire, eccetera. Sognava anche molto, ed è logico, dal momento che dormiva molto. Gli amici gli avevano dato un soprannome: Dormi molto. E tutti avevano preso a chiamarlo così e si erano dimenticati del suo vero nome. Una notte, o un giorno, non fa differenza, Dormi molto fece un sogno molto diverso dal solito. Si trovava in un castello per vecchi re e regine ormai andati in pensione. Una vera galleria degli orrori, un vero incubo. Questi relitti stavano piangendo un loro affilato, un re moro, che era morto di diabete pochi secoli prima, e le loro voci stridule e carognesche davano veramente il voltastomaco. Ad un tratto questa infame allucinazione svanì e comparve un'audace visione. Magica, seduta fra i mille sogni e i recipienti del cielo, latte e miele, poi una cipolla, un ramoscello di colombe, una colomba di mandorle e poi comparve una fanciulla, bella come il sole, e forse era proprio la figlia del sole, che disse: «Io sono la bella fiorita, di nessuno sono invaghita. Chi il fiore più bello mi porterà e al più presto con me si sposerà». Dormi molto fu scosso, come fosse stato colpito da un fulmine in pieno cranio. Si alzò dalla bambagia e si precipitò giù dal fioraio. «Presto, Zanza, dammi il fiore più bello, se no ti tiro giù dalle spese!» Naturalmente il fioraio non sapeva cos'era il fiore più bello, ma aveva paura che quell'energumeno lo giudicasse. E tanto per dire qualcosa mormorò: «Il fiore più bello si trova solo nel giardino del re Gobbo». Dormi molto, dopo aver fatto giuramento che fino a quando non avesse trovato la bella fiorita non si sarebbe più fatto una dormita, partì. Manco a dirlo, prima ancora che arrivasse, l'avevano già bevuto e rinchiuso nelle segrete del regno. Aspettando la morte, volle dare un ultimo sguardo al panorama e in quel mentre un'aquila si posò sulla sua finestra. Dormi molto la curò, per quel poco che poteva fare, le diede la sua acqua e il suo cibo. Ma l'aquila in realtà non era altro che la fata acquina, la fatina che era più buona alla sera che alla mattina. Mossa da tanta bontà, la fata lo prese con sé e lo portò nel suo nido. Ma qui Dormi molto cominciò a gemere e a sbraitare che voleva il fiore più bello. E la fatina una mattina gli disse: «Il fiore più bello, se lo nasconde il re Gobbo sotto la gobba, è impossibile portarglielo via». Figuriamoci il giovane, voleva suicidarsi. Ma ben presto era sera e la fata gli disse: «Va bene, andiamo a prenderlo». Misero i mantelli che rendevano invisibili e andarono nella camera da letto del re Gobbo. Oppiarono il vino e quando il porco si addormentò, gli segarono la gobba e gli tolsero il fiore più bello. Questo fiore era veramente il più bello, perché aveva lo splendore di una stella, il colore dell'arcobaleno, il profumo della terra, fischiettava pure meglio d'un usignolo. E bisogna sapere poi che la gobba era un concentrato di veleno, di cacca, di lebbra e di altre schifezze. Ma senza di questo, il re non poteva sopravvivere. Ed infatti morì. Ora che aveva il fiore, Dormi molto voleva trovare la bella fiorita. Al mattino cominciò a pregare la fata di aiutarlo, ma non c'era verso. Calò la sera e quella gli disse: «Ogni notte passa di qui Scirocco, guarda se può portarti da lui». Con l'aiuto di Scirocco dormì molto più veloce della luce, si trovò al cospetto della bella fiorita. E l'idillio fiorì. E ancora adesso, che sono passati tanti anni, continua a fiorire. E dormi molto, continua a non dormire.